per la conversione di Ars, preghiere e penitenze. La preghiera del curato d'Ars in chiesa. Il curato d'Ars, con l'amore di Dio e l'amore delle anime, aveva nel sangue ciò che è stato chiamato l'istinto di conquista. Per natura energico e intraprendente, aveva sognato un'esistenza molto attiva e utile. Lo vedremo precisamente all'opera, nel minuscolo campo che gli è stato affidato e dove invece avrebbe potuto vivere in pace. Fin dalle prime settimane si creò giornate veramente piene e feconde. Molto prima dell'alba, quando ad Ars ancora tutti riposavano, si poteva scorgere un incerto bagliore che attraversava il cimitero. Don Vianney, con una lanterna in mano, usciva dalla canonica per recarsi in chiesa. Il buon soldato di Cristo si recava al suo posto di intercessione. Andava dritto in chiesa e si prostrava, e fondeva allora il suo cuore, gravido di desideri, già appesantito di sofferenza. Nel silenzio completo della notte, pregava ad alta voce il Signore di aver pietà del gregge e del pastore. «Mio Dio», supplicava, «concedetemi la conversione della mia parrocchia». «Accetto di patire tutto ciò che voi volete per tutto il tempo della mia vita. Sì, o Signore, anche per 100 anni tutti i dolori più acuti, purché essi si convertano». E bagnava di lacrime il pavimento. Al sorgere del sole il povero sacerdote era ancora là, cioè se ne accorgeva dalla luce che brillava attraverso i vetri. Don Vianney passava in tal modo anche la mattinata, se non doveva uscire per cose di ministero. La gente che lo cercava per un malato non aveva bisogno di andare in canonica, sapeva dove trovarlo. In certi giorni non uscì dalla chiesa se non dopo l'Angelus della sera. Attraverso la campagna. Tuttavia, ordinariamente, visitasse o no delle famiglie, faceva nel pomeriggio un po' di movimento attraverso la campagna, ma ne approfittava per pregare ancora con slanci del cuore o con la recita del breviario. Cercava di dire una parola ai lavoratori che erano nei campi, quindi con il suo rosario in mano si perdeva nei sentieri o s'addentrava tra i boschi. La sua anima di mistico aveva fame di solitudine e di pace. In mezzo a quella splendente natura, il suo petto, abituato ai puri effluvi delle brezze, si dilatava con gioia. Era bene ne godesse, perché s'avvicinava il tempo in cui non avrebbe più conosciuto un'ora di calma, in cui sarebbe vissuto come sepolto, senza aria e senza sole. Era per lui un piacere, è stato detto di questo novello Francesco d'Assisi, andare a pregare nei boschi. Là, solo con Dio, contemplava le sue grandezze, servendosi di tutto, anche del canto degli uccelli, per elevarsi fino a lui. Ma a quei gioiosi pensieri se ne mescolavano altri più austeri. Un giorno il signor Mandy, attraversando i boschi della Papesse, trovò Don Vianney inginocchiato. Il giovane curato non lo scorse, piangeva a calde lacrime ripetendo: «Mio Dio, convertite la mia parrocchia!» Il buon contadino, non usando turbare quella commovente preghiera, s'allontanò pian piano. Il pio pastore aveva una predilezione per le belle ombre del castello di Siben. Camminando lungo la sponda del Fontblême, entrava sotto le grandi querce e là, credendosi solo, si portava spesso senza dubbio a ogni gloria patri delle sue ore. Così pure, quando cammin facendo recitava il breviario, prima di cominciare nel finire, si metteva sempre in ginocchio, qualunque fosse il tempo e il posto in cui si trovava. Le penitenze. Alla preghiera il curato d'Ars aggiunse la penitenza. Perché non ci fossero testimoni delle sue spaventose austerità, per tutta la vita volle rimanere solo nella vecchia canonica. Se qualcuno avesse pagato il loro riscatto, Dio avrebbe perdonato più presto i poveri peccatori. Ci vuole sacrificio, è stato detto, per salvare le anime. Fin dal suo arrivo, Don Vianney aveva regalato a dei bisognosi il proprio materasso. Altri due, che non erano ancora stati donati, si trovavano su delle sedie in una camera. Gli era proprio necessario un letto? Per parecchie settimane andò a distendersi per alcune ore su dei sarmenti in una sala del pianterreno. Il pavimento e i muri erano umidi, l'austero penitente contrasse presto delle nevralgie facciali, di cui doveva soffrire per 15 anni. Allora, invece di tornare nella sua camera, andò a dormire sul solaio. Un uomo di Ars, venuto a cercarlo di notte per un morente, lo udì discendere da quella scomoda dimora. Lassù si allungava sul nudo impiantito, con la testa appoggiata contro un pezzo di trave. La vedova Renard e sua figlia, che abitavano vicino alla canonica, lo sentivano muovere, prima di uscire, quello strano cuscino di nuovo tipo. Il più delle volte quel riposo sommario era preceduto da una penitenza ancor più dura. Una volta, salito nella sua camera la sera, il santo si scopriva le spalle, si armava di una disciplina con punte di ferro e quindi, spietato verso il suo cadavere, verso quel vecchio Adamo, così egli chiamava il suo corpo, si flagellava. Certe notti una persona di Lione che alloggiava presso la signora Renard lo udì colpirsi per più di un'ora. Si fermava un istante, poi i colpi risuonavano nuovamente. «Quando finirà?» gemeva piena di compassione la vicina di casa. Fabbricava lui stesso, o almeno riparava o perfezionava i suoi strumenti di penitenza. Il mattino, rifacendo la camera, si trovavano sotto i mobili pezzi di catenelle, piccole chiavi, pezzi di ferro o di piombo, che si erano staccati dalla disciplina. Ne metteva fuori uso una ogni 15 giorni. Faceva pietà, raccontava a Caterina Lassagni, vedere la spalla sinistra delle sue camicie tutta sdrucita e macchiata di sangue. Più di una volta deve essere svenuto e deve aver versato sangue contro il muro. In un angolo della sua camera, nascosto dal tendaggio che cade dal baldacchino, gocce di sangue, ancor ben visibili, hanno macchiato l'intonacatura gialla. Tre grandi macchie rappresentano abbastanza bene l'impronta della spalla e da quelle chiazze brunastre sono colati i rigagnoli fino al pavimento. Altre macchie sono tracce delle dita e delle palme. Il santo le ha lasciate sul muro appoggiandosi nel rialzarsi. La prima quaresima di Don Vianney. Marzo 1818. Siamo in piena quaresima, eccellente occasione per il nostro asceta di iniziare quel digiuno rigoroso che non cesserà se non con la sua morte. Aveva già una preoccupazione di meno, poiché era senza la domestica. Ridusse le sue necessità materiali al minimo possibile. Non ebbe mai una grande regolarità nei pasti, ma nel primo anno che era curato, nelle mortificazioni passò ogni misura. Più tardi doveva chiamare tali eccessi le sue follie di gioventù e convenire in certo modo che allora aveva passato i limiti. «Quando si è giovani», diceva un sacerdote, «si commettono imprudenze». Una quindicina di giorni soltanto dopo il suo ingresso giunse da Dardigli sua sorella Margherita in compagnia della vedova Bibost, cuoca onorario del curato d'Ars. L'accoglienza di Don Vianney fu estremamente cordiale, ma si fermò lì. «Care figliole», disse familiarmente alle due visitatrici, «che vi devo dare?» «Io non ho niente». Dopo un momento di riflessione pensò alla sua riserva personale, patate già leggermente ammuffite che aveva fatto bollire egli stesso. «Non abbiamo avuto il coraggio di mangiarne», raccontava Margherita. Quanto a lui, ne prese due o tre e le mangiò davanti a noi dicendo: «Non sono ancora andate a male. Io le trovo ancora buone». E poi aggiunse: «Mi aspettano in chiesa, bisogna che vada. Cercate di arrangiarvi come potete». Goton e la vedova Bibost avevano preso per fortuna la precauzione di comprare un po' di pane passando da Trevaux. Finirono per scoprire nella canonica un po' di farina, qualche uovo e del burro, che una persona caritatevole aveva dato a Don Vianney che egli aveva dimenticato in un angolo. Con queste cose fecero dei matefems, perché sapevano che gli piacevano. Inoltre uccisero due piccioncini che beccavano nell'erba della corte e li fecero andare a spiedo. Il curato tornò dalla chiesa verso mezzogiorno. «Oh, povere bestiole!» esclamò vedendo sulla tavola l'inatteso arrosto. «Le avete uccise? Io volevo disfarmene perché facevano danno ai vicini, ma non bisognava farle cuocere». Non ne volle prendere e s'accontentò di una focaccia. Venne a fargli visita anche il suo fratello maggiore Francesco, meno accorto della sorella, era venuto senza provviste. Fu costretto a scavare lui stesso nell'orto alcune patate e a cuocerle nella marmitta della canonica. Tuttavia, più tardi, come vedremo, Don Vianney si industrierà di trattare meglio i suoi. Quel periodo dell'inizio fu certamente il più austero della sua vita. Allora era quasi solo, abbandonato a se stesso. Ne approfittò. Nel suo fervore di penitenza gli capitò anche di lasciar passare 2 o 3 giorni senza prendere nulla. Durante la settimana santa, forse quella del 1818, mangiò in tutto 2 volte. Presto non fece più nessuna provvista e non si preoccupò mai per il domani. Il pane dei poveri. La vedova Bibost, prima di tornare ad Écouligny, si era assicurata una sostituta nella persona della vedova Renard. Costei, prendendo dapprima il suo compito sul serio, portava in canonica del buon pane fresco, ma subito si accorse che il curato, senza averlo neppure assaggiato, lo distribuiva ai poveri. In cambio accettava da loro oppure comperava i tozzi di pane che si erano portati dietro nella loro bisaccia. La signora Renard gli preparò dei mate frems, gli fece bollire delle patate. Ne mangiava quanto aveva tempo. Più di una volta quella buona donna dovette tornarsene piangendo di compassione col suo piatto pieno. Sapendo che il curato era tornato dalla chiesa, andava a battere alla porta. Dapprima non rispondeva, e poiché insisteva, allora diceva senza aprire: «Non ho bisogno di niente, non voglio nulla». Frequentemente le diceva: «Non verrete fino al tal giorno». Si trattava di un intervallo di parecchi giorni. E quando, nonostante i suoi ordini, la cuoca cercava di forzare la consegna, egli rimaneva inflessibile. La stessa cosa doveva accadere ad altre persone, ed una di esse diceva sospirando: «È molto difficile servire un santo». La marmitta delle patate. Qualche volta Don Vianney faceva cuocere lui stesso nella sua marmitta divenuta leggendaria delle patate per un'intera settimana. Le depositava in una specie di paniere di ferro che appendeva al muro e quando la fame lo tormentava ne prendeva 1 o 2, la terza secondo lui sarebbe stata per il piacere, e le mangiava così, fredde anche quando la provvista era sul finire e le patate erano già tutte coperte di muffa. Qualche volta si faceva cuocere un uovo nella cenere calda, oppure impastava un pugno di farina con acqua e sale, e armato di una lunga casseruola si cuoceva così indigesti mate frems. Quel regime durò fino al 1827, tempo in cui, essendosi organizzata la Casa della Provvidenza, Don Vianney si ricò là a prendere i suoi pasti. «Come ero fortunato», diceva lamentandosi, «quando ero solo. Quando avevo bisogno di cibo, facevo 3 mate frems. Mentre mangiavo il primo, preparavo il secondo. Mentre preparavo il terzo, mangiavo il secondo. Mangiavo il terzo pulendo la casseruola e riassettando il fuoco. Bevevo un bicchiere d'acqua e ne avevo abbastanza per parecchi giorni». La domenica, a mezzogiorno, si trascurava ancora di più e si accontentava per pranzo di 3 o 4 grammi di pane benedetto. Solo la sera acconsentiva a prendere un cibo un po' più abbondante. Un giorno, siccome la fame si faceva sentire più imperiosamente, l'incantevole imprevidente trovò il suo paniere vuoto. Passò da un vicino. La sua figura emaciata lo tradì. «Che avete, signor curato?» gli chiese quell'uomo spaventato. «Ehi, amico mio, non mangio da 3 giorni». Il parrocchiano s'affrettò a dargli 5 pane. Un altro giorno era in visita alla casa di Giovanni Sinier. Era l'ora del pranzo, c'erano patate fumanti sul tavolo. «Che belle!» disse Don Vianney prendendone una. La contemplò un istante e poi la rimise nel piatto. «Era una penitenza che voleva imporsi», dice Antonio Sinier, uno dei ragazzi presenti alla scena. La vicina aveva ottenuto il permesso di condurre la sua mucca al pascolo nel cortile della canonica, lasciato abbandonato. Una volta vi sorprese il curato che stava raccogliendo della cetosa. «Mangiate erba?» gli chiese. «Sì, mia cara Renard», rispose un po' infastidito di essere stato scoperto. «Ho cercato di mangiar solo quella, ma non ci sono riuscito». Il segreto delle prime conquiste. Anche senza quella buona donna, che era donna, dovette chiacchierare un poco in paese. La sua figura emaciata avrebbe indicato abbastanza agli abitanti di Ars le penitenze che si imponeva il loro curato. Quel mistico ne aveva l'intuizione. Lo spirito del male esercita un potere tirannico sulle anime impure. Si trattava di liberarle. Questa specie di demoni, dice il Vangelo, non si scaccia che col digiuno e la preghiera. Il curato d'Ars aveva preso la sua parola d'ordine dalle labbra del maestro. 20 anni più tardi, 14 ottobre 1839, in una confidenziale conversazione dirà a Don Taillade, giovane sacerdote di Montpellier, venuto da lui per alcune settimane per formarsi all'apostolato, il segreto delle sue prime conquiste. «Amico mio, il demonio fa poco conto della disciplina e degli altri strumenti di penitenza. Ciò che lo sbaraglia è la privazione nel bere, nel mangiare e nel dormire. Niente il demonio teme di più e quindi nulla è più gradito a Dio. Quando ero solo, e lo sono stato per 8-9 anni, potendo fare un poco a mio piacimento, mi è capitato di non mangiare per diversi giorni. Allora ottenevo da Dio tutto ciò che volevo, per me e per gli altri». E scorrevano lacrime dai suoi occhi. Un istante dopo riprese: «Ora non è la stessa cosa, non posso stare a lungo senza mangiare, non riesco più a parlare, ma come ero fortunato quando ero solo. Compiravo dai poveri i pezzi di pane che erano stati loro offerti, passavo una buona parte della notte in chiesa, non avevo tanta gente da confessare come ora e il buon Dio mi faceva grazie straordinarie». Così il tempo delle grandi penitenze fu per il giovane curato anche il tempo delle grandi consolazioni. Per la conversione di Ars, la guerra all'ignoranza religiosa. Per rendere la vecchia chiesa più decorosa. Don Vianney comprese che c'era un nemico temibile per il suo zelo, tutta la forza d'inerzia di gente ancorata nelle loro abitudini. Nessuno dei suoi parrocchiani aveva rifiutato di riceverlo. Quelli che andavano a messa vi sarebbero andati ancora, ma di grazia non si chiedesse di più. Ma non fu così. Il giovane pastore, sentendosi responsabile di tutte le anime di Ars, risolvette di non lasciarle in pace se non il giorno in cui fossero scomparsi dalla parrocchia gli abusi. Oltre alla preghiera e alla penitenza, usò la parola e l'azione. La santificazione della domenica, senza la quale non c'è vita cristiana, fu il primo punto che prese di mira. La casa del Signore era abbandonata. Bisognava dunque riportarvi i fedeli e per questo renderla un poco più attraente. La chiesa di San Sisto d'Ars era nel 1818 povera dentro e fuori. Una semplice navata rettangolare, 11 metri di lunghezza per 5 di larghezza, terminante in un coro a rotonda, occupato quasi tutto dall'unico altare. La decorazione era peggio ancora. I muri bianchi di calce erano rivestiti fino all'altezza di un uomo con assi dipinte. Un altar maggiore in legno ma senza nessuna scultura che lo ornasse. Niente volta al di sopra della navata, solo un soffitto alto circa 7 metri e rovinato un po' dappertutto. S'aggiungono paramenti poveri, logori insufficienti che non potevano certo contribuire al decoro delle cerimonie. Tanta povertà muoveva a compassione i sacerdoti forestieri, che qualche volta si fermavano in paese per dir la messa. Don Vianney aveva subito amato quella vecchia chiesa come la casa paterna. Per abbellirla iniziò dal principale, cioè dall'altare, centro e ragione d'essere di tutto il santuario. Per rispetto all'Eucaristia volle quello che di più bello era possibile avere. Per questo primo acquisto non andò a bussare alla porta del castello, ma pagò di tasca propria. Con espansiva gioia aiutò gli operai a drizzare il nuovo altare maggiore. Per arricchirlo ancora, fece a piedi, andata e ritorno, il viaggio a Lione e riportò dalla città 2 piccole teste d'angelo che pose accanto al tabernacolo. Infine, perché non ci fossero troppe stonature tra il vecchio e il nuovo, ridipinse egli stesso lo zoccolo delle pareti. La chiesa si presentò così più decente e più fresca. Quindi aumentò il guardaroba del buon Dio, come diceva lui, col suo linguaggio colorito e immaginoso. Visitò a Lione i negozi di recamo, di orificeria e vi acquistò ciò che vi trovava di più prezioso. Nei dintorni, confidavano i suoi fornitori meravigliati, c'è un piccolo curato, magro, malmesso, che ha l'aria di non averne mai neanche uno in tasca e che per la sua chiesa vuole sempre ciò che c'è di meglio. Un giorno del 1825 la contessina d'Ars lo condusse con sé in città per acquistare un paramento per la messa. A ogni nuovo modello che gli veniva presentato ripeteva: «Non è abbastanza bello, occorre qualche cosa di più bello di questo». Le trasformazioni materiali nella chiesa non furono inutili, furono prova dello zelo del pastore, consolarono le anime ferventi e la domenica si fece viva qualche faccia nuova, forse più per curiosità che per pietà. L'istruzione religiosa dei fanciulli. Il grande male di quella povera gente era l'ignoranza e quindi di conseguenza l'indifferenza in materia di religione, non l'incredulità, perché essi avevano conservato la fede. Ora, in quella ignoranza, il loro curato, severo ma illuminato, vedeva non solo una lacuna, ma un peccato. «Siamo sicuri», diceva dal pulpito, «che questo solo peccato ne dannerà più di tutti gli altri messi insieme, perché una persona ignorante non conosce né il male che fa, né il bene che perde peccando». Di qui la santa passione che egli mise nell'istruire. Un tempo aveva voltato la terra col sudor della fronte. Quella fatica manuale non era che un passatempo paragonata al compito inaudito che gli si imporrà d'ora innanzi. L'istruzione religiosa della gioventù divenne la sua prima preoccupazione. I fanciulli di Ars erano impiegati assai presto nel lavoro dei campi. Fin dall'età di 6 o 7 anni venivano mandati a pascolare il gregge. A 12 anni un ragazzo doveva aiutare il padre nelle semine e nel tempo della raccolta. Nella Dombo gli operai agricoli erano rari. Quasi nessun ragazzo sapeva leggere. Al catechismo venivano soltanto durante i mesi piovosi dell'inverno e non se ne interessavano molto, anche perché non erano in grado di studiare. La domenica andavano a messa se non erano mandati nei campi anche in quel giorno o se non c'erano altre faccende da fare in casa o in cascina. Assai presto le cattive compagnie e l'ignoranza religiosa li avrebbe portati al libertinaggio. Materializzati, curvi sulla terra, molti di quei poveri ragazzi vivevano e crescevano come se non avessero avuto un'anima. La prima comunione sembrava essere nella loro vita solo un episodio qualunque. Il nuovo curato d'Ars cominciò a riunirli alle 6 del mattino durante la settimana, dai santi fino al tempo delle comunioni. Prima dei vespri domenicali, verso 1 c'era pure il catechismo. Don Vianney usò industriosità per attirare i suoi piccoli alla chiesa. «Quando ero ragazzo», riferisce Francesco Pertinan, oste e vetturale di Ars, «mi ricordo che ci diceva: darò un'immagine a quello che arriva primo alla chiesa». Per avere quell'immagine ce n'erano di quelli che arrivavano prima delle 4 del mattino. Questo naturalmente durante la bella stagione. Don Vianney non cessò di far catechismo personalmente se non quando ebbe un aiutante, cioè nel 1845. Per 27 anni egli esercitò da solo tutte le funzioni del suo ministero pastorale. Suonava lui il catechismo dei fanciulli, riferisce Don Taylad. Lo cominciava con la preghiera che recitava in ginocchio senza mai appoggiarsi. Quindi attirava l'attenzione dei piccoli con alcune forti riflessioni, che ordinariamente erano tanto impressionanti da muovere i fanciulli alle lacrime. Presentata la lezione ne faceva la spiegazione, breve, facile e piena d'unzione. Voleva che i fanciulli stessero molto attenti, li sorvegliava attentamente e all'occorrenza dava loro qualche leggero castigo. Ma sapeva soprattutto incoraggiarli e ispirare loro con le sue maniere affabili quell'affetto filiale che è fonte di rispetto. Esigeva che possedessero la corona del rosario e ne teneva sempre parecchie in tasca per regalarne a chi avesse perso la sua. C'erano buoni vecchi che dopo 70 anni amavano narrare i loro ricordi di quel tempo. Quando andavamo al catechismo, raccontava nel marzo 1895 il signor Dremé a Monsignor Convert, il curato Don Vianney, mentre attendeva che fossero arrivati tutti, pregava in ginocchio nei banchi del vecchio presbiterio, sotto le campane. Pregava, pregava, poi di quanto in quanto alzava gli occhi al cielo sorridendo. Credo che quell'uomo vedesse qualche cosa. Interrogata a sua volta sul modo con cui il santo pastore istruiva i fanciulli, la signora Dremé diceva che andava avanti e indietro tra i ragazzi, distribuendo frequenti buffetti, o non forti, era tanto buono, a quelli che non stavano quieti. Toccava loro la guancia col suo catechismo in cui teneva un dito. La domenica teneva il catechismo anche agli adulti. La signora Verchères, che dopo mezzogiorno facilmente prendeva sonno, più di una volta si fece richiamare all'ordine come i ragazzi. Il curato, passandole vicino, la svegliava toccandola col libro. Ne era molto contenta e sembrava fiera della predilezione. Grazie alle infaticabili ripetizioni dell'uomo di Dio, i ragazzi di Ars divennero i meglio istruiti della zona. Monsignor De Vilo disse un giorno che amministrava la cresima e più tardi i sacerdoti che succedettero a Don Vianney nella parrocchia di Ars furono spesso meravigliati ed edificati delle conoscenze religiose che riscontravano presso semplici fedeli amministrando loro gli ultimi sacramenti. Il fatto era che nella loro infanzia avevano ricevuto le lezioni da un santo. Tuttavia, è bene dirlo, non approfittarono tutti ugualmente delle sue lezioni. Il curato d'Ars esigeva il catechismo parola per parola e c'erano memorie ribelli. Ora, per uno scrupolo di coscienza che sembrava legittimato dal rigorismo eccessivo di certi moralisti che avevano scritto prima di lui o che gli erano contemporanei, Don Vianney impose ad alcuni ragazzi parecchi anni di catechismo supplementare e tardò così la loro prima comunione in modo incredibile. A questo proposito abbiamo le confidenze del signor Dremier. Pietro Sinier, Stefano Perrud, Sinier Legard fecero la comunione a 16 anni compiuti. Sinier Legard andò a farla ad Amberie, io fui ammesso a Miserie. Certo che era un problema andare al catechismo quando si era già così grandi. L'istruzione religiosa dei fedeli. Ancor più ardente fu lo zelo che Don Vianney ebbe per istruire con la predicazione i fedeli della sua parrocchia. Si installò in sagrestia, essa è in comunicazione con la Chiesa. Il sacerdote lavorerà sotto gli occhi del Maestro Eterno. Il suo ambiente di lavoro è la guardaroba dei paramenti sacri. Studia la vita dei santi, il catechismo del Concilio di Trento, il dizionario di teologia di Berger, i trattati spirituali di Rodriguez, i sermoni di Lejeune, di Lejoli, di Bonardel. Unico suo riposo nel lavoro febbrile è quello di alzare di quando in quando lo sguardo sul tabernacolo. Poi va a cercare l'ispirazione dinanzi all'altare. Inginocchiato sul gradino, medita ciò che ha letto. Si rappresenta le povere persone a cui deve parlare. C'è lì il maestro che seppe esprimere le verità più alte in modo che le potessero comprendere anche i pescatori, i contadini e i pastori. Lo scongiura con lacrime di ispirargli i pensieri e gli accenti che toccheranno e convertiranno il suo popolo. Torna in sagrestia e si rimette a scrivere. Campione della verità, lavora in piedi come un soldato che si prepara alla battaglia. La penna corre rapida sulla carta e qualche volta copre con la sua scrittura fine, curva, rapida, da 8 a 10 fogli grandi in una stessa veglia. In certi momenti lavorò anche 7 ore di seguito, vegliando fino a tarda notte. Cancella di raro. Frasi incomplete rivelano la fretta e l'ardore del suo zelo. Il tempo è prezioso, bisogna andare avanti a qualsiasi costo. Ed ora bisogna imparare. È il compito più duro perché la sua memoria non si è mai sciolta e si tratta di farvi entrare da 35 a 40 pagine di un testo scritto di getto tutto di seguito, quasi senza capoversi o divisioni apparenti. Si esercita a recitarle ad alta voce nella notte dal sabato alla domenica. Dalla strada che rasenta il cimitero, dei passanti notturni lo sentono ripetere la predica del giorno dopo. Se colto dal sonno, l'asceta si siede sui mattoni nudi e con la schiena appoggiata contro la credenza di quercia si assopisce per alcuni istanti. Quelle ore terribili saranno tra le più meritorie e commoventi della sua vita. Un predicatore eroico. L'indomani rimaneva da affrontare l'uditorio. A parte il banco riservato ai castellani, dove prendeva posto la contessina d'Ars, in chiesa non c'erano che contadini. Erano osservatori disposti allo scherno. Alcuni, specialmente i giovani, avrebbero preferito essere altrove. Non importa, erano anime da evangelizzare. Del resto, il sacerdote in pulpito compie un dovere necessario del suo sacro ministero. Don Vianney ne era più convinto di ogni altro e ciò bastava per dargli coraggio. Ma il povero curato aveva la testa rotta dall'accanito lavoro notturno. Erano quasi le 11 del mattino ed egli era ancora digiuno, non avendo mangiato nulla dal mezzogiorno precedente. Infatti, la domenica doveva cantare la messa solenne e tenere la predica. E per colmar la misura, ogni sua predica durava un'ora intera. Parlava con voce gutturale, in cui dominava quasi sempre la nota alta. Tuttavia, il tono e il gesto erano naturali. «Perché gridate tanto forte predicando?» gli chiedeva la contessina d'Ars, preoccupata per lo sforzo che compiva in cattedra. «Risparmiatevi un po' di più!» «Signor curato», chiedeva un'altra persona, «perché quando pregate parlate tanto piano, quando invece predicate tanto forte?» «È che quando predico», replicava bonariamente, «parlo a gente sorda o addormentata, mentre quando prego parlo al Signore, che non è sordo». Nulla di sorprendente che dopo tale sovraffaticamento la memoria talvolta gli venisse meno. In pulpito, dice il maestro Giovanni Pertinan, si perdeva ed era obbligato a ridiscendere prima d'aver finito. Simile conclusione dinanzi a parrocchiani che forse aveva severamente rimproverato, anziché abbattere il suo coraggio, non faceva pare che animar sempre più il suo zelo. La domenica successiva rimontava in pulpito. Tuttavia, preoccupato degli insuccessi che potevano diminuire la sua autorità pastorale, pregò, fece pregare. Da allora non solo ebbe la memoria meno ingrata, ma si sentì capace di improvvisare all'occorrenza anche alcune parole. Gli argomenti delle prediche del curato d'Ars. Che predicava al suo gregge quell'ignorante nell'arte oratoria? I loro doveri. Si indirizzava soltanto ai suoi parrocchiani con chiarezza, senza sottintesi e senza inutili lodi. Alcune delle sue frasi sembrano molto dure, ma il predicatore, soprattutto nei primi anni, batte forte perché l'idea penetri. Spesso però il tono s'addolcisce, si intenerisce. L'apostolo non è solo un convertitore, ma anche un pastore ed un padre. Nell'uditorio ci sono anche cuori da sollevare, volontà da incoraggiare. Frequentemente ci diceva parole come queste, riferisce Guglielmo Villiers, che aveva 19 anni quando arrivò ad Ars Don Vianney. «Miei cari parrocchiani, cerchiamo di andare in paradiso. Là vedremo Dio. Come saremo contenti, andremo tutti in processione. Se la parrocchia diventa buona e il vostro curato sarà alla vostra testa. Bisogna proprio che andiamo in paradiso», diceva ancora. «Che dolore se alcuni di voi fossero dall'altra parte». Ripeteva spesso che per la gente di campagna è facile salvarsi, perché possono pregare facilmente anche durante il lavoro. Si congratulava discretamente, con molto tatto, con i giovani e le giovani di Ars, che rinunciavano al disordine e si impegnavano risolutamente sulla retta via. La prima cosa da ottenere dai fedeli presenti in chiesa, gli assenti e i ricalcitranti avranno pure la loro parte, era un contegno conveniente, come si addice a cristiani che assistono al più santo dei misteri. Purtroppo notava in quasi tutti una trascuratezza, prova del loro disgusto. Mormorii, sbadigli rumorosi e grossolani. I ritardatari si tirano dietro pesantemente la porta. Chi ha fretta lascia la chiesa a metà messa. I giovani guardano da una parte e dall'altra della chiesa per vedere come è vestita la tale e se è bella. Anche i ragazzi non si comportano meglio. Guardate le loro risa, guardate i segni che si fanno questi piccoli empi, tutti questi piccoli ignoranti. In verità quelle anime sono come rocce aride e per aprirle occorrono colpi duri. Usando la loro lingua e le loro espressioni correnti, Don Vianney rimprovera la loro mancanza di fede pratica e con termini tanto vivi che solo l'ardore dello zero può spiegare e scusare. A rischio di mortificarne parecchi pubblicamente, li investe all'occorrenza senza riguardi, con realismo e crudezza. I suoi rimproveri sono vivi, diretti, personali. Riprendi severamente perché abbiano una fede sana, scriveva San Paolo a Tito, suo discepolo. Il curato d'Ars in principio prende quel consiglio alla lettera. E qualche volta, bisogna pur confessarlo, il suo temperamento caustico e mordace, soffocato dalla virtù, viene a galla. Il nostro santo non ha ancora appreso la perfezione della dolcezza. Così anche la sua esperienza non ha raggiunto la piena maturità. Severo con se stesso fino all'eroismo, lo è un po' troppo con gli altri. Subisce del resto l'influsso del tempo. L'albero del giansenismo è abbattuto, ma ha lasciato radici nascoste. Del resto, dai pulpiti delle parrocchie dei dintorni, anche se non sono occupati da grandi santi, cadono accenti simili. Nella direzione delle anime non basta sradicare, occorre anche saper piantare. Obbediente alle prescrizioni del Concilio di Trento, che impone ai pastori il dovere di spiegare spesso ai loro fedeli i riti tanto pregni di santificato del sacrificio della messa, il curato d'Ars si sforzò di darne ai suoi parrocchiani praticanti l'intelligenza e l'amore. Spiegò loro volta a volta la natura, la necessità, il valore, i benefici dell'Eucaristia. Possiamo dire che l'idea madre della sua vita sacerdotale sia stata quella di staccare le anime dalle preoccupazioni terrene per spingerle verso l'altare. Ma in parrocchia c'erano anche quelli che invece di andare a messa andavano a trovare un vicino per berne insieme una bottiglia. Quelli che se incontravano un amico per strada con facilità lo invitavano a casa e rimandavano alla messa un'altra volta. Quelli ancora che passano il tempo delle funzioni giocando all'osteria, lavorando, andando a spasso o ballando. Gente che viveva come se fossero sicuri di non avere un'anima da salvare. A questi il curato d'Ars minaccia i castighi dell'altra vita. Povera gente, come siete disgraziati, tirate pure avanti la vostra vita, state sicuri, voi non potete sperare che l'inferno. Li prende anche dal loro lato debole, dalla parte dell'interesse. Pensateci un momento e vedrete che finiscono quasi tutti miseramente. Perdono la fede e poi vanno in malora, perciò sono doppiamente disgraziati. Il povero predicatore lo sapeva anche troppo bene, assai spesso si rivolgeva a degli assenti e parlava ai muri. Nonostante tutto, alcune feste molto solenni, per una tradizione ereditata dai vecchi, riunivano ancora in chiesa quasi tutti i parrocchiani. Eccellente occasione per il curato di fustigare i vizi che rovinavano tante anime. Il giorno dell'ascensione li attacca tutti insieme. La predica del Corpus Domini incomincia con un assalto contro i peccatori che trascinano dovunque le loro catene e il loro inferno. Ma improvvisamente si ferma. No, miei fratelli, è meglio fermarsi. Questo pensiero è troppo disperante. Questo linguaggio non ci conviene proprio oggi. Lasciamo quei disgraziati nelle tenebre, dato che vogliono restarci. Lasciamo che si dannino, visto che non vogliono salvarsi. E detto ciò si rivolge subito alla parte praticante del suo gregge. Venite, figlioli, nella festa del patrono neanche quelli e quelle che passano il giorno e la notte successiva a ballare e a bere non osano mancare alla messa. Don Vianney ha dinanzi tutta la sua gente, non la mollerà prima d'aver somministrato una buona scarica di staffilate. Ed ecco una virulenta requisitoria contro il ballo. Mi direte, grida! venirci a parlare del ballo e del male che facciamo è perder tempo. Non importa, egli prosegue la sua requisitoria. Dicendo questo, non faccio altro che il mio dovere, non vi dovete arrabbiare. Il vostro pastore fa il suo dovere. Flagella ora i giovani, ora le ragazze che si abbeverano alla sorgente dei peccati, ora i genitori ciechi e insensati che hanno dato loro esempio. La lotta è incominciata e il curato d'arse è risoluto, se Dio gli dà vita, a non deporre le armi se non a vittoria completa.